Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Buongiorno e bentrovati a Olimpia, la città dello sport. Da oggi, finché gli dei dell'Olimpo e dei giochi ci saranno propizi, vi racconterò tra attualità e memoria i miti e le verità di tutto lo sport. E a sfogliare il calendario sportivo è in arrivo per lo sport italiano, in particolare per il rugby, un incrocio davvero da leggenda. Sabato 15 novembre gli azzurri affronteranno a Genova, in un test match ufficiale, l'Argentina. Storie ed emozioni che si incrociano nella sfida che ci attende con i Pumas, una delle migliori nazionali al mondo, visto anche i tanti azzurri di origine argentine che vestono oggi la maglia dell'Italia. Su tutti, il primo ospite di Olimpia, un mito vero dello sport e del rugby italiano, il capitano della nazionale Sergio Parisse, nato proprio alla Plata nel 1983 da genitori italiani e che proprio in Argentina ha scoperto la sua passione per la palla ovale. Benvenuto capitano ad Olimpia. Allora Sergio, un incrocio immagino sempre emozionante per te, quello con i Pumas, vero? Sì, per me l'Argentina fa parte sicuramente di un bellissimo ricordo, perché comunque ho passato la mia infanzia in Argentina fino ai 17 anni prima di partire a Treviso, però i miei genitori da italiani in un paese straniero non mi hanno mai fin da piccolo non mi hanno mai insegnato, diciamo, ad amare l'Argentina come la mia patria, ma bensì l'Italia, quindi diciamo che per me particolarmente il legame con l'Argentina è diverso forse da quello che può essere il legame ad altri ragazzi qui nazionali che sono magari più argentini tra virgolette. Il calcio è lo sport nazionale, basti pensare a Maradona e Messi, ma anche l'amore per la palla ovale ha radici profonde a Buenos Aires e dintorni, vero capitano? No, diciamo che comunque in Argentina ci sono tantissimi club di rugby e, come hai detto te, in Argentina anche il calcio è, diciamo, lo sport nazionale come magari qui in Italia. A livello rugbistico comunque l'Argentina ha sempre avuto tantissime squadre e soprattutto anche tantissimi buoni allenatori e ex giocatori che sono comunque sempre rimasti molto legati ai loro club di appartenenza e quindi hanno comunque potuto trasmettere le loro esperienze internazionali ai ragazzi più giovani. Ci sono tantissimi ragazzi in Argentina che dopo anche i successi che ha avuto la loro squadra nazionale, sia prima di entrare nel Four Nation, delle partite che hanno fatto di test match, o anche nel Mondiale 2007 dove arrivarono terzi se non sbaglio, hanno comunque in questi ultimi anni dimostrato di essere una squadra in crescita e comunque hanno avuto dei risultati notevoli, quindi è sicuro che questo sport in Argentina è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni perché la loro nazionale ha fatto dei buoni risultati. Proprio alla Plata, se non sbaglio, hai iniziato ad amare il rugby, giusto? Io ho fatto i primi passi a rugbista là, perché ovviamente ho iniziato a giocare in un piccolo club vicino casa mia e niente, fino a 17 anni ho giocato lì nelle giovanili di un piccolo club di seconda divisione dove sicuramente ho avuto dei allenatori bravi e che mi hanno aiutato tantissimo fin da piccolo. Poi a 17 anni ho avuto la fortuna di poter giocare, indossare la maglia azzurra con la nazionale Under 19 e poi da lì sono partito subito a Treviso per continuare, diciamo, la mia evoluzione rugbistica alla Benetton e poi in Francia. Beh Sergio, voglio raccontarti ora la storia di un altro giovane che qualche anno prima di te e prima di prendere tutt'altra strada proprio nella sua Argentina si era innamorato del rugby. Laureando in medicina, studi sulla lebbra. Arriva il furibondo della serra, il Fuser! Partito di rugby? Dai, tu, bravo, Fuser! Il furibondo colpisce ancora! E occasionalmente asmatico. Leggendario quest'incipit del celebre film I diari della motocicletta. Sì, perché c'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Che, Ernesto Guevara fu semplicemente uno studente di medicina innamorato del rugby, come ci ricorda Sergio Giuntini, storico dello sport e membro della Società Italiana di Storia dello Sport.

col c'è ideologo, insomma. Comandante, davvero emozionante ripercorrere la parabola di Ernesto Guevara, regbista rivoluzionario. Olimpia, miti e verità dello sport. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. È il 24 marzo 1976. La giunta militare rovescia il governo di Isabelita Perón e si impossessa del potere in Argentina. Decine di migliaia di persone sospettate di appartenere ad organizzazioni studentesche, sindacali, politiche o che si ritenesse potessero svolgere una qualsiasi attività che interferisse con la politica marziale della giunta militare furono arrestate, torturate e segretamente uccise. Saranno le madri degli scomparsi a scendere in strada, in Plaza de Mayo, a Buenos Aires, davanti alla Casa Rosada, la sede del governo, a chieder conto del destino dei loro figli. Dove stanno i nostri figli? Vivi o morti? Dove stanno? Diteci dove sono. Li stiamo cercando ovunque, non sappiamo se hanno freddo, se hanno fame, se sono vivi, si chiede questa donna. La risposta del generale Videla è raggelante. Non sono né vivi né morti, sono scomparsi, desaparecidos. Muerto ni vivo, está desaparecido. Fino al 1983, quando il regime militare cadrà, saranno oltre 30.000 gli scomparsi, oltre 200.000 gli argentini costretti all'esilio. E anche lo sport, e il rugby in particolare, pagherà il proprio tributo di sangue. Sergio Parisse, capitano della nazionale azzurra di rugby e oggi ospite di Olimpia. Conosci la storia del rugby La Plata, vero? Sì, diciamo che comunque questo passaggio nella storia anche del rugby, della Plata Rugby, è stato un passaggio molto forte, molto importante, in un momento sicuramente anche a livello sociale molto difficile l'Argentina, nel momento dove c'erano la dittatura al potere, quindi sicuramente questa squadra di rugby ha vissuto dei momenti molto, molto intensi, molto forti. Comunque la tradizione, ecco, soprattutto della Plata come città, che conosco bene perché io giocavo in un club che era proprio di fronte a questo della Plata Rugby, si chiama Universitario, è una tradizione molto, molto importante fino ad oggi è uno dei club anche in tutta la provincia di Buenos Aires più importante dell'Argentina, quindi di certo è un club che continua a portare avanti tutta la sua storia e la sua tradizione. Hernán Roca, che fu assassinato por la AAA antes del golpe del 76. Mariano Montequín, detenido desaparecido el 6 de diciembre de 1977. Otilio Pascua, que fue detenido desaparecido el 24 de octubre de 1977. Junto con sus compañeros de equipo y de militancia política, que eran Sánchez Viamonte y Pablo Balut. Il primo fu Hernán Roca, fine marzo del 1975. Poi Mariano Montequín, poi Otilio Pascua, e poi tutti gli altri. 18 regbisti, anzi no, 18 ragazzi di super giù 20 anni che a forza di passarsi una palla ovale all'indietro erano diventati uomini, gruppo, squadra. Tanti furono i giocatori del rugby La Plata inghiottiti, sbranati, uccisi dalla dittatura. E dire che tutto nacque da un silenzio che aveva il valore del più clamoroso gesto di ribellione. Per rendere omaggio a Hernán Roca, mediano di Mischia, sequestrato e ucciso dalla polizia segreta quasi per sbaglio perché scambiato per il fratello, militante politico, i ragazzi della Plata chiesero all'arbitro un minuto di silenzio prima della sfida che li avrebbe opposti allo Champagnat. Ma quel silenzio durò ben più di un minuto. L'orologio continuava a correre. I ragazzi della Plata restavano lì, fermi, dritti, immobili in campo, tra il mutismo degli spettatori, lo stupore dell'arbitro, la rabbia dei militari seduti in tribuna, per 10 infiniti minuti. Claudio Fava, deputato, giornalista, scrittore e vicepresidente della Commissione Antimafia, ha raccontato questa scena nel romanzo Mar de la Plata, edito da ADD. Le dittature si sfidano anche col silenzio, non soltanto impugnando le baionette. Questo minuto di silenzio per il loro compagno ammazzato, che senza che nessuno di loro si avesse pensato, si trasforma in 2, 3, 5, 10 minuti di silenzio. Tutti i giocatori in campo in silenzio, il pubblico soddisfatto. ribalti, tutti costretti o felici di vivere quel tributo a un ragazzo 16 anni ammazzato. Il regime fu una sfida senza precedenti e fu anche la ragione per cui la giunta militare dichiarò la guerra contro questa squadra. L'altro momento molto bello, perché normale, perché umano, allo stesso tempo denso della passione di questi ragazzi, quando l'allenatore, che è l'unico che ha capito cosa sta per accadere, che non ci saranno prigionieri, lo dice: ragazzi, capiamo, andiamo via, andiamo in Francia, andiamo a giocare lì, o qualcuno che ci dà asilo politico. I ragazzi decidono di votare, perché sono una squadra, perché è giusto che sia così, e senza dirselo tutti votano di rimanere. Da quel momento l'accanimento dei militari contro gli Amarillos, così erano detti i giocatori della Plata per via della loro maglietta gialla, sarà capillare e spietato. Ne rimarrà solo uno, il capitano Raul Barandarian, che ancora oggi racconta l'epopea drammatica ed eroica di quella squadra, di quei ragazzi, di quegli uomini. Ese club de la libertad nos dejó aquellos que teníamos. Yo tenía una militancia politica periferica, pero una militancia politica. Eravamo il club della libertà, con l'idea della libertà che era nel cuore dei dirigenti, di noi giocatori, del nostro allenatore, dice ancora oggi Raul. E quest'amore per la libertà non nasceva tanto dalla militanza politica, che in realtà era tiepida per molti di noi, ma proprio dall'amore per il rugby, per quella palla ovale che ci aveva reso amici l'un con l'altro. È il deporte dove la maggior quantità di gente gioca alla misma vez in una cancha. Anni e lacrime sono passati da allora. Non tutta la verità è stata svelata, non tutti i corpi hanno avuto degna sepoltura, non tutti i colpevoli hanno pagato. A noi rimane il dovere di non dimenticare quei ragazzi che pagarono invece il prezzo più alto per amore della vita e della verità, come ricorda ancora Claudio Fava. In realtà è una squadra che arriva fino a noi intatta, pur nella vicenda drammatica che ha conosciuto, perché raccontare un gruppo di ragazzi che si affacciano alla vita nell'Argentina della dittatura del 1978 è un modo anche per raccontare l'adolescenza di oggi nelle periferie napoletane o in quelle siciliane, dove lo sport è uno strumento di vita, è un gioco che dà regole, che dà lealtà, che dà la capacità di sfidare la vita, esattamente il contrario di ciò che era la dittatura in quel tempo. Bisognava restituire un po' di memoria a una storia che sembrava inabissata, travolta dalle altre mille storie che l'Argentina di quegli anni ha conosciuto. Sergio Parisse, hai sentito, quanto forte e drammatico può essere l'amore per il rugby in quell'Argentina che tu ben conosci. Ma anche i Pumas, se torniamo all'attualità, che dovrete affrontare voi azzurri a Genova, non sono certo da meno. Un brutto cliente quello che vi aspetta il 15 novembre a Marassi, eh? Sì, una squadra che dopo il loro ingresso nel Four Nation si è migliorata tantissimo. L'Argentina è sempre stata comunque di tradizione una squadra molto forte, tutte le partite che abbiamo giocato contro di loro sono sempre state partite molto, molto combattute, molto chiuse, ovviamente in questi ultimi anni siamo riusciti a batterli solo due volte, se non ricordo male, là in Argentina, a casa loro, però abbiamo sempre avuto delle difficoltà a batterli qui a casa nostra, quindi escono da un Four Nation dove bene o male hanno fatto bene, vincendo anche contro l'Australia e facendo sicuramente giocando contro squadre dell'emisfero sud, quindi le squadre più forti al mondo sono abituati a giocare a livelli molto alti, e magari contro di noi a novembre noi non siamo una squadra che magari può giocare allo stesso ritmo, di certo non è lo stesso ritmo dell'Australia, Sudafrica, Nuova Zelanda, ma siamo una squadra che sicuramente cercheremo di mettere sotto pressione in altri aspetti del gioco, quindi non sarà per loro una partita facile, ma non lo sarà neanche per noi. Ci aspettiamo sicuramente di fare una partita molto dura e molto lottata fino alla fine per 80 minuti. E allora, capitano, un grande in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Radio 24 e di Olimpia, la città dello sport. Grazie, un abbraccio a tutti. E allora staremo a vedere come andrà a finire questo incrocio con l'Argentina del rugby per i nostri azzurri. L'appuntamento odierno di Olimpia finisce qui. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Potete riascoltarci dal nostro sito web radio24.it, scaricare sempre dalla nostra pagina web il podcast di tutte le puntate, quindi anche di questa prima puntata di Olimpia, e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a Giovanni Capuano e a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima, sempre alle 16:30. Ancora un saluto da Dario Ricci.